12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. La puntata di oggi è dedicata al tema lavorare nel mondo dell'arte, ovvero insieme cercheremo di capire come poter entrare in questo settore lavorativo e cercare di capire anche un po' quali sono i meccanismi, i percorsi che possono poi risultare vincenti per un ragazzo, per un giovane che volesse intraprendere questo tipo di percorso. Lo faremo insieme a Marco Caldiron, direttore artistico di Carichi Sospesi di Padova, ente sia di formazione per quanto riguarda il mondo dell'arte, ma anche e soprattutto soggetto associazione che si occupa di produzioni artistiche. Quindi insieme a Marco poi capiremo esattamente nel mondo dell'arte come funziona e che cosa sta avvenendo. Nella seconda parte invece del nostro programma avremo ospite con noi l'artista Alberto Cacopardi, che ci racconterà qual è stato il suo percorso di formazione, quindi da dove ha iniziato ad oggi, e magari ci faremo anche dare qualche consiglio proprio pratico, utile appunto per chi volesse intraprendere questo tipo di percorso. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto a Marco Caldiron, direttore artistico di Carichi Sospesi di Padova. Marco, Carichi Sospesi è un'associazione culturale che nasce nel 1998, ha una parte dedicata a produzione artistica, curate festival a livello internazionale. Ci racconti un po' chi siete, che cosa fate? Sì, noi come appunto Carichi Sospesi nasciamo nel 98 dedicandoci quasi esclusivamente a piccole produzioni teatrali e a lavorare con il teatro Disagio, i ragazzi Down in particolare. Poi nel 2003 diciamo che avviene la svolta, nel senso che decidiamo con coraggio di aprire un circolo che di fatto è un piccolo teatro e quindi insomma inizia un'attività teatrale a livello professionale molto più intensa e continuativa, in quanto con un teatro devi programmare, produrre e proporre per tutto l'anno attività di questo tipo, insomma, compresi corsi teatrali, e formazione, stage e quant'altro. Certo, come dicevo prima, voi curate anche festival a livello internazionale. Sì, noi curiamo diversi festival, diciamo che quello storico più antico nostro è un festival di teatro di strada che curiamo dal, non mi ricordo neanche da che anno, comunque siamo arrivati alla 17ª edizione. Okay. E questo è il festival storico, insomma, che è dedicato al teatro di strada, la Luna nel Pozzo di Caorle. Però poi da qui abbiamo iniziato a curare festival magari piccoli, anche prettamente teatrali, a Padova e anche a Roana e in altri paesi del Vicentino. Insomma, abbiamo un po' spaziato nella nostra attività organizzativa. Prima accennavi alla parte dedicata invece alla formazione e ai corsi. Ecco, ci racconti un po' più nello specifico qual è la vostra attività? Sì, allora noi appunto assieme all'attività organizzativa e assieme all'attività produttiva, che naturalmente sono le due anime così che hanno fatto nascere i Carichi Sospesi, abbiamo immediatamente dal 2003 attivato con continuità un'area dedicata alla formazione, cercando di coinvolgere insegnanti, esperti di teatro che a Padova nel 2003 lavoravano in maniera così più continuativa e che in qualche maniera avevano una linea poetica simile alla nostra, quindi insomma dando una certa organicità alle proposte. Certo. E abbiamo attivato corsi annuali di teatro e da allora non ci siamo più fermati, devo dire la verità, abbiamo continuato a aumentare la proposta, a crescere, abbiamo toccato delle discipline collaterali a quelle teatrali, come per esempio la danza contemporanea, lo yoga, il lavoro sulla voce, sul coro, insomma tutto quello che in qualche maniera può arricchire o aiutare nel percorso teatrale. Marco, se un ragazzo oggi volesse intraprendere un tipo di percorso appunto artistico, entrare nel mondo del lavoro in questo settore, quali consigli ti senti di dare? Allora, beh, questa è una domanda difficile. Ci sono due strade che si propongono, diciamo, immediatamente. Una è quella istituzionale, cioè quella delle accademie teatrali, e una è quella invece un po' più da autodidatta, diciamo, che segue invece questi percorsi, questi corsi, stage intensivi, laboratori che non sono riconosciuti dal punto di vista ministeriale, ma che offrono però una varietà forse maggiore di proposte, di variazioni. Io non sono, come dire, non me la sento di dire che cosa è meglio, che cosa è peggio. Quello che posso dire è che il mio percorso, il percorso di tutti i miei compagni di viaggio, è quello dell'autodidatta, cioè del lavorare assieme a dei maestri, dei insegnanti per un certo periodo, per poi così sposarne altri e arricchire quindi i linguaggi e i percorsi. Certo. Marco, quindi se un ragazzo volesse intraprendere questo tipo di percorso che voi offrite, mettersi in contatto con voi, come può fare? Beh, allora noi abbiamo un sito che è sempre aggiornato, che è www.carichisospesi.com, in cui ci sono le diverse pagine, sia quelle delle proposte formative, sia quelle sia per le performative e quant'altro. Certo. E se vuole scrivere a chiedere informazioni, può scrivere a carichisospesi@libero.it. Benissimo, Marco, io ti ringrazio di essere stato qui con noi e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi e arrivederci. E adesso ascoltiamo La valigia dell'attore di De Gregori. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore lascia andosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là. Nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, che tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già. E ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua. Siamo venuti per niente, perché per niente si va. E ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo famiglia abbia lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto ad Alberto Cacopardi. Alberto, oggi come ti definiresti? Allora, come mi definisco? Mi definisco un artista, attore, danzatore, giocoliere. E non sono all'interno di una categoria definita chiara, ma sono un artista che ha attinto da linguaggi diversi e poi li ha messi assieme creando una propria poetica. Alberto, qual è stato il tuo percorso per arrivare ad oggi? Allora, il mio percorso appunto si è nutrito di linguaggi diversi, c'è il teatro di movimento, la scuola di Lecoq, Jacques Lecoq, e poi c'è la danza contemporanea, Butoh, che è una danza giapponese che non segue delle coreografie precise, ma lavora su una metamorfosi del corpo all'interno di ciò che c'è nel mondo. E poi c'è la giocoleria, la musica. È stato un percorso, insomma, ecco, molto variegato, cioè nel senso che hai attinto, appunto, come dicevi te dall'inizio, da diverse esperienze, da diverse tecniche. Tu da dov'è che sei partito esattamente, Alberto, per intraprendere questo tipo di percorso? Allora, dal teatro fondamentalmente. Sì, diciamo che il teatro è uno spazio, il teatro proprio in sé è lo spazio nel quale si uniscono e si fondono un po' tutte le arti. Un artista è un po' come un bidone vuoto che poi fa tante esperienze, ne mette dentro il bidone, poi quando il bidone è pieno guarda dentro cosa c'è e scopre come tutte le cose, le esperienze fatte si mescolano, si fondono, si trasformano. Quindi diciamo che un po' l'artista è una persona che va alla ricerca di tanti linguaggi vicini a lui, oppure invece è un'altra cosa, un'altra via può essere, questo è stato il mio percorso, un altro percorso può essere quello magari di seguire una disciplina ben precisa, andare in fondo a quella, che sia il teatro di prosa piuttosto che la danza classica. Ecco Alberto, se un giovane oggi volesse avvicinarsi al mondo dell'arte e intraprendere questo percorso, qual è il consiglio che ti sentiresti di dare? Di buttarsi verso nelle cose che sente vicino a lui, che vuole fare, che sente che gli piacerebbe fare quella cosa, di farla, di stare in quella cosa, di andare a fondo senza fermarsi alle prime difficoltà, perché subito dopo le difficoltà, anzi è proprio quando c'è la difficoltà che si scoprono delle cose, che si sviluppano delle cose dentro di sé, insomma. Alberto, quali sono i tuoi prossimi progetti? I prossimi progetti, io lavoro moltissimo col teatro di strada, quindi diciamo che adesso è finita la stagione, adesso sono proprio nella fase progettuale, quindi computer eccetera eccetera, sto organizzando laboratori vari, anche nel sociale. Magari, non so, vuoi darci qualche anticipazione un po' più specifica? Cercando di lavoro molto all'estero, quindi sto cercando di creare un gruppo di festival di teatro di strada che si mettono assieme per creare un gruppo interculturale di ragazzi che vogliono avvicinarsi e sperimentare la danza urbana. E questo è il primo progetto. Per il resto, insomma, sto portando avanti il progetto Tessuto Corporeo, che è un progetto formativo di espressione corporea che unisce vari territori. Ho capito. Alberto, allora io ti ringrazio per essere stato qui con noi nel nostro programma, ti faccio un in bocca al lupo per questi tutti i nuovi progetti e poi magari chissà che in futuro per queste tue nuove iniziative festival magari insomma ci vorrai far sapere ecco dove possiamo trovarci e trovarti. Senz'altro, senz'altro. Grazie Alberto, ciao. Ciao. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Siamo giunti al termine di questa seconda puntata dedicata al lavoro nel mondo dell'arte. I nostri ospiti ci hanno raccontato come lavorare in questo settore voglia dire anche lavorare molto su se stessi e quindi seguire anche delle proprie inclinazioni, dei propri desideri, di ascoltare appunto molto le proprie inclinazioni. Quindi un lavoro che sicuramente non ha un percorso strettamente lineare, ma che attinge, come ci ha raccontato Alberto, da varie tecniche, da varie competenze, o come anche Marco Caldiron ci ha raccontato all'inizio, si va dal teatro, si va dal canto, si va dalla danza, quindi sicuramente qualcosa di molto completo e allo stesso tempo anche molto complesso. Prima di salutarvi vi do qualche anticipazione sulla puntata, sulla prossima puntata, che tratterà nello specifico il tema del bivio, ovvero, ve lo spiego un attimino, trovarsi a dover fare una scelta di cambiamento di lavoro, trovarsi in questa situazione prescelta o per obbligo. Avremo con noi vari ospiti che ci racconteranno un po' la loro storia e vedremo un po' di capire magari quali possono essere i dubbi, le perplessità o anche i punti di forza di un cambiamento di questo tipo. Per oggi è davvero tutto, io vi saluto, bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.